C'è qualcuno ascolto qua? Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare? Oh, ciao Franco, buonasera. Benvenuto. Stiamo chiamando a vedere se c'era qualcuno che ascolta. Vabbè, non c'è nessuno. Fino adesso ci siamo. Aspetta, io ti dovrei chiamare, non lo faccio, perché il dottor stava chiamando. Forse che qualche colpo importante, non ha prodotti. Sentivo gente dando colpi importanti, però non entrava, ne credo dove si dice. Lo devi dire da farci. Se non è orgoglioso, è stesso. Saranno afflitti da micropanico, si diceva ai miei tempi. Prima, lo mandano fuori, poi dentro già le prendo il suo. vado dove vado a comprare la roba per la casa, lì vado a vedere se c'è qualcuno. Adesso mi hai dato l'idea. Aspetta, ma vedi, parliamo delle cose ritornano di moda, si è tutto nuovo nel mercato. La ruota non è vero come insomma, si può provare a avere un rischio, perché man mano che vanno poi fargli la configurazione, basta. Perché se io, su i miei limiti a 35, 40 euro, 45, la ma la problemi ci sono i originali, a tutti i portano più di una. Adesso lo sento, mi sta rompendo in questa casa, sì, L'R0 è il 2 alfa, ogni tanto chiama. E qua che problema è? UHF, un UHF, un altro no, l'internazionale adesso non so più che frequenza è, perché prima lo sentivo, adesso no, come se c'era rosso, o è rosso ancora non funziona. No, spero che funziona, ma io sono sul canale 10, mi sembra, insomma, modellato sul canale 10, se lei che insomma, per questo non mi ricordo più, se lei guardare da qualche parte, qualche agenda l'avevo segnata. Sì, anch'io, quindi non me la ricordo più. La frequenza se la consegnata a qualche parte da questo e ma qui c'è la memorizzata che lo sentivo qua solo che se non stanno chiamando evidentemente non sta funzionando lì sarà rotto qualche trasferimento quindi no, non arriva qua. Claudio, ma voi anche se avete dai un po' importante già che così si funziona la cosa. Anche Claudio, la buonasera. Buonasera, è un carino qua che rompe dai tutti. Serve di alfa, l'R7 alfa e l'R0, insomma. No, limite nazionale, stavo dicendo. Sono più sensibile, perché te hai memorizzata qua e lì, quando io l'accendo sta sempre girando. Però sento l'R0, quindi alfa, sì, lì sento tutto. E con quell'antenna fuori dalla finestra, una bomba di antenna, Il 431 287.5 mi sembra di sì. Quindi per il secondo è un minimo lettera di sì. Sì, vabbè, si sentivano più di fuori. Infatti, ciao, buonasera. Sono immunizzate qua, adesso non mi risolvere perché lo spengo, sennò quando chiamano già risenti. Chiamano, ma non è la bocciata, è più nervoso e tu. Io riconosco, no? Quali sono? Perché quello che squilla, l'R0 te lo dice. Ma se non c'hai la radio con i droni, no? Non si possono visitare tutti, ma sono tutti con i droni. Ho così di carino da base, capite? Ed attaccata a quella antenna della macchina che ti avevo detto. E invece con quella. Quella mitica che avevamo usato, che ho applicato. Ehi, l'ho messo fuori dalla finestra, sulla tappa l'ho messa, non è neanche nella base magnetica. Perché quando ce l'avevamo noi era sulla base magnetica, che l'avevamo attaccata a catamarano. Continuate, io mi ritiro per liberare ciò che voglio fare, mi ci siamo più tardi. Stavamo parlando sul canale 1 PRM poco fa. noi consideriamo l'HTML per vedere se arrivavo la Franco col sottotitolino e se ci arrivo. Va bene, ci aggiorniamo più tardi se coincide. Ciao ragazzi. E ciao ciao. Amina, se non si attacca. Sono buoni a volte, poi la bella grittata. Giudando, ma proprio la faccio ripetere un po', è quello che si è fatto un po' ricercato ancora. Forse domani me ne vado a testare con un amico. Sì, esatto, la carne sia da scogliera che il fisco del fisco un calamento per la bolognese è pauroso. Ecco, di diritto, quindi, per me ha segnato un amico che quello col fatturatore il galleggiante stanno per intenderci, ma fatto che aprire, o no, per dire, lo so. Devo darmi la profondità su cui pescare. Sì, ma non capito, vuoi a fondo o in alto? Alla profondità che vuoi tu. Capito? Non c'è la profondità che vuoi tu. A mezz'acqua. E poi qui la salvatore c'è il braccio lo collavo, no? No, lo so anch'io, ma anche siamo cercati che sono fatto da lontano, sono fatto da quello che ho mandato. E poi il braccio, uno che lancia scritto qualche minuto, e poi magari il braccio viene indietro un po' la mente, in modo che l'amo non è cavato proprio in mezzo alla fattura, vuol dire che quello che mi chiedevo in base al tipo di agenzia che mi usavo, lui si camuffa in mezzo alla fattura e funziona anche con la... Ma quando vanno le cicale bianche così utilizza solo oppure una farinata di cammini leggeri, 4-5 grammi, sono così per le giante e poi terminare, faccio le maglie al mare, se è molto male più corto, se è male calmo più sottile e più lungo, Mi ha comprato una canna bolognese con un lino piccolo, bello, e quella la devo provare ancora. Perché l'altro giorno a casa ero già arrivata a Sintino e mi ha telefonato mia moglie e mi scattava il salvavita. E da qui ero già così, grazie. E ho fatto un bagno bucato. E anche la Sintino, ma le... Io vedi, sono a mare dentro perché c'era sciroppo, quindi a diciamo mare fuori era calmo. Era girato a mare di fuori, dopo ho potuto prima del il paese di Tentino, dove cani di Calu, come si chiama? Ci arrivo lì, abbiamo passeggiando la macchina, casa mi telefona mia moglie e sono dovuto trovare dietro la Sintino, casa, andare a comprare lo scaldabagno, meno male che gli avevo fatto a mia moglie la pompa con l'attacco rapido per potersi riempire i bidoni, si era grossa della misura vita dello scaldabagno, ma quando io sono andato a comprare lo scaldabagno e a tornare era già vuota. Per quello che devi svuotare. Allora, quel giorno mi chiamato anche mia madre, e c'era stanotte usciva una persona, ma io comunque ero così bucato. Guarda, quello che sono che mia madre mi chiama un anno, c'era quindi impossibile. E sicuramente di notte da loro sale troppo la pressione, no? E quindi dalla valvola che c'è lì, dove c'è la valvola di ingresso, la parte della valvola di un ritorno, molta acqua da lì sicuramente. Allora può stretta la valvola, anche a me mi ha fatto quel difetto lì e l'ho dovuto, l'indomani l'ho dovuto fare, perché mi faceva quel difetto di bagnare il flessibile, cazzo, dice, e quindi allora gli ho spigliolato una fetta perché era troppo lenta la valvola. però presa erano per gli bis e gli ho messo la guarnizione dietro e quindi la giudizia ed era una valvola che era troppo lenta, infatti l'ho presa e adesso le salda bagno non di più, ma per 5 anni durerà. No, esatto, arriva proprio dal furgo, c'è quello più vicino che svolge, a un lato, no? Dove c'è poi la gara, quella pompa che fate voi. Ma è una valvola di sovrappressione, in caso di troppa pressione, invece di esplodere lo scaldabagno, si butta acqua da quello scheatore, capito? No, la scaldabagno è a posto, diciamo, le valvole sono tre problemi. Solo dalla valvola aperta. Sicuramente di notte loro hanno troppa pressione, lì ci vorrebbe un regolatore di pressione, mettiamo che c'era, forse non sta funzionando dove è, magari supera i 3-4 mara, non so quanto sia di pressione, e me la butta fuori da quella valvola lì. Ma quel tunicino che c'è nella valvola, stai dicendo? Esatto, quello lì è una valvola di sovrappressione, molti addirittura hanno una levetta che gliela prendi di tu, manualmente, no? Quindi molti hanno solo quella automatica e per cui c'è la sola solo quando hai sovrappressione. Io ho capito, no, da me c'era la valvola che non era certa bene, ma di tutto una cena con bolivizi, via, ed è a posto, ho chiuso tutto, bello regolato. E adesso è un video. Sì. Allora io non ho detto cosa perché sono rimasto contento. Sì, quindi non dico a mano, ma un po' più di la foto che si voleva difficile da creare, perché non è come una canna, come si. Lo so, però a me più via, io pure gli ho messo il dentro, credo di far scrivere. E ce l'ho appena appena per lei. E comunque adesso vediamo un po' se glielo fa, non gli faccio come ha fatto in quella mente di cucina che era uno piccolo da 10 litri, per farsi i piatti, ed è un soprannovello, c'è la sopra sopra i chiesi, anche quello perdeva, e allora gli ho messo una pompetta da lì, che va a finire diciamo dello scolapiatti, e poi dello scolapiatti c'è nel tempo della meno là. La mia lascia tranquilla perché ci rimasta una pressione anche lì non rovine mobili. Sì, infatti, immagina gliela metto pure io la pompetta di quel tubicino che mi ha detto giù, mi ha dato l'idea. Solo se hai problemi di troppa pressione, sennò difficilmente scatta la valvolina lì. Ripeto, io no, quando nessuno usa l'acqua in campagna. Sicuramente c'è le mobili, io non ci abito, quindi non posso controllare, però ho visto la vetta a posto, quindi sicuramente l'acqua è uscita solo da quella scatola lì. Sì, ci ho messo quelle pompette che usano in ospedale per il flavor, per quelli per l'aria del sol, però devi avere un punto dove ricarla, solamente qua. Che vicino a questo l'appello, immagino puoi mettere nella ricetta del water da qualche parte, che sarà in terra, nella buttina, oppure direttamente nel water sotto la tavoletta. No, io sul lavandino ho sotto lo scaldabagno, non uno scaldabagno da 60 litri, quello che ho comprato. Ehi, l'ho comprato uguale a quello che c'avevo prima. Che mi è durato un mese e quindi l'ho preso uguale. Sì, come ho detto, la cucina me l'hanno già cambiato in garanzia, mancavano un po' di mesi, mi pare, che si è bucato, l'ho cambiato subito lì da vabbè, come in questo caso era 70, che non si credeva che era 70 anche quello, avrà un 5 anni di garanzia, l'ho preso lì, e ce l'ho mano, metto lo scontrino a mattina, ho fatto l'altro, facciamo l'anno di pizza. Ma sono abbastanza tranquilli, io l'ho corso, ma capo in altura, ma domani se ne prendo un altro. Ma dovevo il codice, ha preso il vecchio, è stato via un nuovo, ora. Anda bene Neda, io era già traduta, chissà quanti anni ce l'avevo, io sto dicendo sì, ma ce l'avevo anche di sì, e invece buttarsi, e la quadra faceva scattare il coso, il salvavista, non riuscì a attaccarlo nei piedi, allora ha finito per forza salire. E ora che va, devi attaccare sicuramente il coso, cioè in una sfida, la prendi, oppure se sai il dottore di qua, come ce la prendiamo, lo scalo magno la faresti? C'ho la spina con la presa, qui. Ho attaccato la spina alla presa e via. Se lo voglio attaccare, sacco la spina e si fa. Allora, dovevi attaccare la spina, magari non c'era più la tentazione, come stavo con la spina di sua. Io ho visto, che ne hanno ritrovato, sono un certo adesso. Ciao. E allora, niente. Mia moglie non lo sapeva, per esempio, che era lo salamagno, lo so perché io, quando sono salito, ho fatto una pesca in frasi. Appena arrivi, mi sono guidato da su, ha cliccato la salamagno. Lo so, purtroppo. Io stavo andando con un amico, la prima volta, amici. Mi ha telefonato che riscattava il salvavita, qui era lo salvabagno bucato che prendeva l'acqua e faceva tutta la corrente. Lo so, a parte che ne state non si può andare, di cui andare solo di noi. Di mangiare dalle 8 non si può pescare perché c'è la gente, in spiaggia e così. Ed è un macello. Io qui sono stato male tutto l'anno e quindi ho già esercitato. Ho avuto 3 ricoveri e 2 operazioni, infatti il costo. E allora, mi sto riprendendo adesso. Sono arrivato a 52 kg, da 80 di misavi. Non scherzo. Adesso mi sto riprendendo, mi sto da 60, adesso. Ma adesso ho dimagrito molto per la malattia che ho avuto. Sì, va giù la 44 in pantalona, va. La di una linguanza. E me lo posso immaginare. Cosa vuoi? Purtroppo la malattia, quando ho avuto la muta franche la cifra acuta, io non lo so miracolo. Cosa vuoi fare? Sono diventato più di diabetico, altri quanti che non funziona più, 4 milioni di tutto il mercato a inizi si è uscito. Stavo dicendo, purtroppo a me le partite mi hanno fatto male, come vedi l'insulina, cosa sai, che mi viene a gavattici che ce l'ho sotto controllo la glicemia, praticamente non mi sale più di sangue. Sta dicendo tutto con gli inizi. Altro non mi è sembrato. Io l'ascolto con gli inizi, potrei passare un po' l'anticipazione. Attenzionato. Ho capito. E vabbè, ci non stai mescando così. Ma che si rischia? E allora le partite mi hanno fatto male, quindi mi ho fatto ridare di su. Però me le voleva prendere tutte, solo quella della notte, mi devo fare quella lenta. Però no, mi sono dati male, risolvermi. No. Non andavano bene quelle partite per me. Puoi abbassare qualcosa, che ho difficoltà proprio a capire. Ciao Cristian. No, abbassa ancora, abbassa. Sì, sì, ancora, abbassa, c'è un comune notificato. Che cosa? Adesso non ho qua, molto basso, vicino al sacro cuore. Ho vicini, però non lo so, ho difficoltà a capire voi, che è troppo complicata. E vabbè, non vuol dire che Natalino è vicino, però lo ascolto come una cartolina. Infatti le giornate fuori frequenza rispetto a me, ho provato a ascoltarmi io con il calcio e mi ascolto meglio. Io non lo ascolto bene, no. Evidentemente ho ascoltato un po'. Sì, allora se io lo metto 27076 lo ascolto meglio. Allora c'è l'apparizio che c'è stato di frequenza. Ecco, avete parlato di due. Ho detto, allora c'ha l'apparizio che è sfruttato di frequenza ed è per quello che la sentiamo male. Allora, per la battaglia, perché? Io la cosa meglio se mi porto un po' verso 7-7-7, dai, la sotto meglio. Oh, poi c'è anche il mio ascoltato e non è detto che sia quello degli altri. Avanti io la sotto così. Adesso lo faccio parlare e mi sposto a vedere. E provo a cambiare la tarazza. Allora. Hai visto la metà che c'è niente? Quando l'ho posto a 27076, quindi il suo segnale aumenta, quindi vuol dire che lui sta trasmettendo proprio leggermente il suo dato. Dico bravo. Io non so, ormai si è fatto più nessuno, lo fa, qualcuno lo fa così per, non dico per lui, ma quasi, tipo Fabrizio, però c'è un sacco di lavoro, non so se te lo faccia proprio. Ma che non tenimo il coraggio, di fare anche la prima. Si può tenere la rua, mi amo le gasse. Ma ragazzi, e che no, quello piccolino non ho fatto la sera in massa. Mi sono ascoltato a 7-5. A 7-5 è centrato, invece. Io ho detto 7-7-7. E a 7-5 volevo dire, io trasmetto a 7-5, però in ascolto sono a 7-5. Ma voi, qual è il contatto, il fine o il corso? No, il show... Allora, è a scatti questo, è diverso dagli altri apparecchi, capito? Devo premere per portare l'altro. Aspetta che mi rimetto centrato. No, ma... No, di prima. Poi è più rapido. No, sei sempre lì, sei 27076, 077. Vabbè, ma legati quel bandoro, Sì, ho legati. Che è vero, ma che è Cristian? Sì, ciao Luca. Ah, il microfono che non si viene, si porta dietro tante cose, ci vuole un microfono sì, devo dare adesso un M1000. Cosa qui? Non c'è anche il fatto, ragazzi. Ma da lì, ciò lo sento, ma non è tu qui? Sì, anche io sono un po', io non travaglio, sono un po' di te. Non lì ci vuole un microfono normale, ma ci saranno questi amplificati. Guarda, a me hanno detto che esco bene con questo microfono normale. Ma no, ma sì. Vedi, un microfono normalissimo, un pochetto Inter qui sopra. Inter? Inter che? Non è giusto Inter. È Inter. Ma processo è Inter. No, no, non è Inter, forse Inter c'è scritto qua. Ah, ok. È Inter. Inter. È intero. Comunque quel microfono è stato dando ufficio a sì, praticamente non va bene, poi in macchina l'amplificato non va bene, si porta tutto dietro, c'è un microfono normale, una radio buona. Comunque se ti interessa io ne ho una, sì, dai, c'ho un mobico, un nuovo. vuoi sapere? Ah? Ah, c'è anche tu, allora tu cosa dici? Il microfono che non va bene, avanti la tarissa. E io non sto facendo di radio adesso, che sto usando il microfono normale, il coso, il 3009. Perfetto. Gara, gara. E diciamo il capo di tavola, che deve fare? E anche questo non va bene. Sì, fate Luca è stato benissimo. E c'è credo. Questo è l'altro omologato, il 3009. Va benissimo, c'è il mio tipo, tipo io là, se possiamo dare. Il 3009, sto usando l'iPhone. E io sto usando il 3009. No, qua non si può togliere il bit, purtroppo. Anche qua, anche qui è fisso, invece nel Galaxy si può togliere. Perché questo a posto dell'utilizzo, infatti non c'hai canaliate e canali magici, capito? Sì, bande. Ma come stavo dicendo, non si può ponticellare, mettere un tastino sulle scuole del bit. Sicuramente si può fare. So che magari dovrei sapere dove devo potenziare, ma me lo faccio anche io. Mi ci metto, piano piano me lo faccio, ma sono solo a mettere le mani. Sono l'altro apparecchio che io che c'è il tassino. Bisogna vedere dove è stato fatto il ponte, capito? E copiare, perché tanto la scheda madre è uguale. Ah, dice che sono uguali col 3009. No, i due, io un samurai e un super galaxy, sono precisi, tecnicamente sono uguali. Però questo c'è il bip fisso, al posto del bip c'è andato dei canali HI e vari altri. Invece se dovessi aprire un altro che c'è andato, sicuramente se tu segui l'impianto, l'andatino vai a vedere dove vengono saldati quei due fili, sicuramente trovi l'invincolo e come fai a toglierlo e a metterlo. Allora carissimo, va bene lo stesso, io lo lavo così, siamo rogati e non lo posso aprire. Ma sui canali c'ho, cioè, ci sono 40 canali in questo edificio, che non c'è già i canali, però bisogna aprire dentro e portare un trimmer, uno di quegli affari che c'erano i computer mie. Lo sposti e c'è i canali alti e bassi. Sì, sono già predisposti per la parte di frequenza, vogliono solo un ciclo modificato e basta per leggermente, non stanno parlando di switching o qualcosa di del genere. Infatti, anche la frequenza si può regolare, invece questo è come si trova la fase. Sì, va bene, allora, andiamo avanti a Cristian, non c'è più Cristian, ho preso sì. Non risponde, e io penso. Magari cambia che cosa, che entra all'altro con l'apparecchio. Perché tu c'era qua in zona, pareva di arrivare a forte, ma dopo parlava cacciere, infatti non ci capiva nulla, sicuramente era qua vicino. E gli dice che era c'è col cuore. Sì, sempre lui. Però non ritengo pure nemmeno Luca. Ma lui Luca lo conosciamo, che va da un fiore all'altro. Se un po' può, ma ne parla, è la comuna. Sì, a mettere gli audio come l'altro giorno, questo appalletto di nuovo. Che ma mira, io un bravo credo. Allora, anche una cassetta già. No, gliel'ha mandato uno, gliel'ha mandato un amico suo, quel file. E allora lui lo manda, no? Quando io lo trovo per lui manda quello. Ah, è in digitale, quindi è stato già digitalizzato. E poi si incazzava proprio. Ma no, no, gliela facciamo uscire il fegato. Sì, una volta. E poi io dico, questo di che non mi ha fatto tra me e me adesso. Era incazzato con una belva. Tu devi mettere rotto e bip, veramente, mamma mia. Una dietro l'altra, ma era ridato la volta, mi pare che la piega di là con la via passata arrabbiata. No, e tutti la provocavano, lui ci cercava come, insomma, o niente. Esatto, io una volta, io lo difendevo sempre, stavo parlando con Adriano, non so se te lo ricordi tu Adriano, e parlava sempre con me. Ma la tappa eravamo vicini di casa. Stavo parlando con Adriano, io a un certo punto mentre secco secco, Adriano, non si parlare con quello che affroscio, già me Adriano l'ha detto, Adriano, non si parlare con quello che affroscio. Quando mettevo la patata per dire mezz'ora è importante, no, però le stazioni di sotto zero non è venuta proprio, era un impianto pazzesco, riusciva bene ma la giusta la campagna arrivava, una bomba arrivava e forse ci va. Se facevi il tempo a cazzo in questo in un altro canale, lui stava, era ancora della portante di CD. Allora, non c'era niente nuovo, subito che si mutava a pesce lì. Adriano quando gli ha detto così, mezz'ora in terra coricato, ridendo. Il sudore che ti arrabbia, non solo lui, c'era anche dove si cava di lì quelle pomeriggio. C'era la mano qua, una bella posizione lì, poi era aperto da tutto, e lo vedeva in pieno, e poi si riprendeva bene anche verso, verso fuori. A tutte le parti arrivava forte fissinoso. Mi aveva piazzato la penna. Ah, lì si diceva che aveva piazzate. Ah, lì si aveva come? Allora, mi si è voce da tutti i bacini. Ma se le parti lo conoscevano perché arrivava forte da tutte le parti. E poi si va sempre lì, Liscio, credo, Ma pure i baracchini guridinali voci, va via. Non riesci a bruciare un finale, prega. Non c'è quelle portanti così, l'avrei bruciato io, un baracchino. Boh, sempre quella portante inserita per un'ora, mezz'ora, No, sicuramente era un impianto, era fatto per la data, era perfetto. Avanti. Buonasera, Paolo. Ehi, Gianni. Ciao Franco, ciao Carlino, ciao Francesco, saluto tutti cordialmente. Ciao già, c'è la Luca qua e Cristian, però non rispondono né uno e nell'altro. Ciao Gianni. Ciao, ma che è stato la stasera? Hai ascoltato? L'ho chiamato oggi di più. La troca dura già per introdurre. va tutti i cani mangiano, non li buchi lì. E poi possiamo mangiare il cane di mio cugino, che è bravo, poverino, un cane da caccia, solo perché l'ha visto alto. Non c'è stato verso di farlo avvicinare. Lo giudicato di Nisno, lui avrebbe moscicato. Non so se lo ricorda, perché adesso, quando potrebbe fare la moscicata, quando fa la museruola, praticamente ammaia e diciamo, viene interrato di nuovo, viene da me di nuovo per alzare, no? Non mi ha fatto piacere quel canale, quello della musica. Sì, si attende che la digra ciappa si rimane a Rugani Giulia. Diciamo che si sarebbe difeso, cioè, se non avesse avuto la museruola si sarebbe difeso, però purtroppo l'avevo messo la museruola e quello lo sbaglio mio è stato quello. Infatti, ma stai attento quando esci, sai che quel cane si faccia vedere, a chi si vuole dare due gli mani, il gatto ci rimane, il cane si rammenta. Una volta l'ha visto, c'è stato su quattro zampe, non riusciva a tenere. Infatti, lo so io, almeno gli ha cambiato il carattere, forse. Infatti, come vede un cane più alto del normale, subito si dà il cibo a pinzare. Non è giusto. E a quegli altri cani non gli fa niente, per esempio, manco di... negli abbagli non è nulla. Se non ricordo, c'è poco da fare. Avanti, fra. C'erano detto, c'erano questi turisti con un barbolino bravissimo, che era un bravaglio di cane. Diceva che pizzeria, non si chiama, lo fanno specialmente nel lido, questi tipi stavano aspettando la pizza da portare via e hanno attaccato il cane, ma con quel cane un po' lungo, da 3-4 mesi, questo cane prende tappe e musica al barboncino, questi qua erano turisti, sono incazzati neri, avanti, allora non ti dico, anche se hanno ragione. E comunque animali da parlare, no, non i cani, no, loro dopo. Un incrocio tra via 20 settembre e via di Guadagna Bruzzi, non so, un cane strano, tipo un bassotto un po' lungo, ma non mi tocca, cioè quello lì non sta facendo niente. Loro l'hanno lasciato lì, ha preso al tubo il cane, con il guinzaglio diciamo, attaccato al tubo, però era lungo. Più erano anche 3 o 4, uno poteva tenere il cane, sapendo poi che rimane il carattere quello che è. Comunque meno male che non gli ha fatto niente, l'hanno tutto toccato, visto che sangue non c'era, perché era bianco bianco, quindi si è bevuto subito. La signora, poi la padrona è uscita dopo, no? Perché c'erano anche i figli di questa qua. E da qua, se vuole, anche un telefono, se c'è qualcosa, mi faccia sapere. E però poi l'avevamo incazzato ancora, quindi alla fine c'era la presa di nuovo il telefono preso. I cani, diciamo, per gli schifi, per il tuo avvicinare, non lasciare i busi, io non so mai tirato, lasciavo tu i busi il cane, non so mai tirato, ma sono un cane grosso, non si ammazza, non si ammazza, non si ammazza, non si ammazza, sempre il padrone è un sbaglio, io sono di quel parere, come lasciarlo, come fanno sempre che dico come un sbaglio, lo lasciano scorazzare così il cane. Anche la piamesima, ma anche il suo non ne ha contro questo contro il padrone del barbugino, anche tu ne ha morito. Insomma io il mio cane c'è tranquillito, e non può dire niente, anche tu devi fare allora. A fine di mese mi è andato. Ma cosa? La bugiola devo portare solo i cani pericolosi, tipo di bull Doberman, questi cani così anche il mostro tedesco, dovrebbero portare tutti la bugiola con i cani. Qua c'è il cane, capisci, che non ha un carattere stabile, e in realtà invece è la maggioruola. Io poi vedo, la mattina ci c'erano i cani, avanti, la tarica. Che cazzo, c'è il cammino, c'è anche qualcosa da dopo. Cosa c'è qui? Non c'è mamma, non c'è, dopo viene, non c'è mamma, no. Chi sei intelligente, Lucano, mi dici tu quando vuoi andare a fare la pipì? Come il nostro gatto, la moglie, lui dice che è la mamma, il gatto, mica non è un bambino, giù di tutto. e purtroppo è così, però lui abbaia come un cuccio e allora io so che mia moglie, ma prima di entrare in vicolo lì, se faccio male la campana la sente subito, si mette a abbaiare come un cuccio, allora io so che mia moglie. E mia moglie la conosce, mi pare che le broccate lui c'è già che sta arrivando, sente il rumore, non so, del tacco della macchina, qualcosa sente? Sì, io penso dall'odore, non penso il rumore, perché la prima di entrare nel vicolo, che mia moglie prima di entrare nel vicolo, lui sa che è mia moglie, e non sbaglia, Beh, l'odore mi sembra un po' troppo, ma i rumori sicuramente sentono meglio di me sicuramente. Avanti già. No, l'odore lo sento anche da lontano. Allora, io ti dico una cosa, la cosa, no, se un dico un amico, la testa lo sai dove abito io, dove c'è praticamente quella rotatoria dove c'è la palma del pavimento, ecco, dove c'è la fontana, allora se un dico, ma... Lei ha cominciato a tagliare, a tirarmi, e non ha cosa cavolo, mi sono preso i figli a uscire al buio e di notte, in esempio. Mi ha tirato, sono stati i musulmani, una ventina di litri. E lo sai cosa c'era? Lo dico, che nessuno di mangi. Sì, vabbè, io ti do ragione, l'aria aperta, ma io abito al primo piano. Prima che apri il portone di lui, il portoncino di greco, diciamo, del palazzo, il gatto ha già sentito, quindi non penso che sia l'odore. Su, all'aperto ci facevamo un paio di due, e poi siamo aperti a favore. Conoscevo il rumore della macchina del gatto, si metteva sulla ranghiera, sulla ringhiera del terrazzo, se no poi lo sai, lui si stava sempre, miau, miau, miau. E a Villa di Munocini, mia moglie è lontana, per esempio, prima di entrare nel vicolo di qua, prima di arrivare ci sono un po' di metri, eppure lui la sente, non c'è nulla a fare. Sì, no, loro hanno un'udito superiore all'altro, ma non di poco.